E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Ultimo giorno della settimana, quindi ultimo appuntamento per questa settimana con Focus Economia. Di che cosa parleremo oggi? Come avete sentito nel corso del giornale radio, conferenza stampa conclusiva prima delle vacanze del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che ha parlato di quanto è stato fatto dal governo, ha accennato a quali saranno gli impegni futuri. Noi ovviamente vi riporteremo tutto ciò che è stato detto e di cui ha parlato dal punto di vista economico. E poi ovviamente dedicheremo ampio spazio al dato sul PIL italiano, un dato che va giù ancora una volta. Il secondo trimestre non è stato positivo, meno 6%. Dal punto di vista anno su anno, mentre il dato congiunturale, quindi rispetto al trimestre precedente, vede una flessione di mezzo punto percentuale, sicuramente meglio di quanto era stato registrato nel primo trimestre del 2009 con un meno 2,7%. E poi vi racconteremo di un imprenditore di Prato, perché come sapete a noi piace dare voce a chi lavora sul territorio, ci piace raccontarvi le storie degli imprenditori che purtroppo in questo momento molti di loro sono in difficoltà, e quindi dare a loro direttamente la parola per spiegare che cosa sta succedendo e come anche stanno vivendo alcune delle misure che sono state varate dal governo, ma non solo. Si parlerà anche dell'accordo tra ABI e Confindustria per la moratoria per quanto riguarda appunto le piccole e medie imprese. E poi parleremo del dato sulla disoccupazione americana, un dato che seppur brutto perché ha un meno 9,4%, è comunque migliore rispetto alle attese degli analisti che si aspettavano un 9,6%. E questo che cosa ha prodotto sui mercati? E qui andiamo a vedere subito qual è la situazione. La situazione stamattina era negativa, l'apertura era in flessione per tutti i listini europei, poi appunto a metà seduta ancora negativi i listini, ancora negativi i mercati europei. Dopodiché è arrivato alle 14.30 ora italiana il dato sulla disoccupazione americana, e questo ha fatto sì che i listini invertissero la rotta, tant'è che anche poi Wall Street ha aperto con il segno più, e in questo momento il Dow Jones guadagna 1,5%, il Nasdaq guadagna l'1,58%, lo Standard & Poor's l'1,65%. In Europa Parigi guadagna l'1,48%, Francoforte l'1,80%, Londra guadagna poco meno di 1%. A Milano il FTSE Italia All Share guadagna l'1,09%, il FTSE MIB sensibilmente meglio l'1,25%. Il miglior titolo sul listino milanese in questo momento è Intesa San Paolo, guadagna il 3,69%, seguito da Mondadori che guadagna poco più di 2 punti percentuali. In fondo invece Pirelli -1,25% e Unipol che cede l'1,17%. Subito dopo il dato sulla disoccupazione, anche euro su dollaro aveva subito un'accelerazione, era arrivato a 1,44 sul biglietto verde, in questo momento invece è arretrato 1,42,17 il cambio proprio in questo istante. E quindi ovviamente daremo poi anche ampio spazio ai mercati e alla giornata di oggi, che appunto conclusiva di questa settimana e preannuncia una settimana che generalmente è piuttosto debole e povera di spunti, che poi quella che sarà la settimana di Ferragosto. Adesso le nostre notizie in breve. Come sempre partiamo dal petrolio, in lieve calo a New York, $71,74 al barile, il calo è di 20 centesimi. L'invito del Ministero dello Sviluppo Economico ad abbassare i prezzi dei carburanti non trova oggi grandi riscontri sulla rete carburanti. Il consueto monitoraggio dei prezzi segnala soltanto 2 movimenti al ribasso. Esso taglia il prezzo della verde di 5 millesimi, portandosi a livello più basso insieme a ERG, 1,33 euro al litro. Shell abbassa i prezzi di benzina meno 5 millesimi a 1,34 e gasolio 3 millesimi a 1,34. 0,16 dal mercato dei prodotti raffinati del Mediterraneo provengono per lunedì segnali al rialzo. Commento del ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola: siamo nel libero mercato, sono contento che ci siamo un paese democratico, libero, e la concorrenza è quella che decide il prezzo del prodotto. Da noi forse ce n'è troppo poca, pur essendo molti concorrenti con qualche sospetto di cartello. Questo era stato il motivo della convocazione, del forte richiamo fatto ai petrolieri, e questo è stato alla fine il commento del ministro Scajola. Continuiamo a parlare di petrolio con i dati della Saras, società di raffinazione che fa capo alla famiglia Moratti. La Saras archivia il primo semestre del 2009 con un utile netto in calo del 96%, a quota 7,1 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2008. In contrazione anche i ricavi, che scendono del 48% a 2.337 milioni nei primi sei mesi dell'anno. Questo è quanto ha comunicato la società al termine del Consiglio di amministrazione, che ha approvato i conti semestrali. La Royal Bank of Scotland ha registrato una perdita nel primo semestre di 1 miliardo di sterline. Il risultato fortemente negativo, dovuto a 7,5 miliardi di sterline di sofferenze, ha spinto il titolo in borsa fino a cedere oltre il 15%, per poi risalire. Negli Stati Uniti, per la prima volta dal terzo trimestre 2007, grazie all'assenza delle svalutazioni che hanno portato American International Group a un passo dal fallimento, il colosso assicurativo americano ha finito in attivo. Nel secondo trimestre AIG ha iscritto a bilancio utili per 1,82 miliardi di dollari, in decisa controtendenza rispetto alle perdite per 5,36 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Restiamo negli Stati Uniti perché, come accennato qualche istante fa, oggi è uscito il dato sulla disoccupazione. Nel mese di luglio sono andati in fumo 247.000 posti di lavoro contro gli oltre 400.000 del mese precedente e i 275.000 che si attendevano gli analisti. Secondo i dati riportati dal Dipartimento del Lavoro, si tratta del calo meno sostenuto dallo scorso agosto. Il rapporto ha inoltre messo in luce che il tasso di disoccupazione è sceso dello 0,1% al 9,4%, mentre gli analisti si attendevano un aumento al 9,6%. È la prima volta dall'aprile del 2008 che il dato si attesta in calo. In calo la disoccupazione, se così possiamo dire, in calo anche la natalità negli Stati Uniti. Per la prima volta dal 2000 il tasso di natalità è tornato in negativo a causa della frenata dell'economia, che ha costretto le famiglie a tirare la cinghia e a risparmiare su culle e pannolini. Secondo i dati previsionali forniti dall'Agenzia federale che segue la salute dei cittadini, nel 2008 la flessione delle nascite è stata del 2%, a fronte del record di gravidanze segnato l'anno precedente, che aveva raggiunto le cifre registrate negli anni 50 durante il baby boom. Secondo gli esperti, il fenomeno è lo stesso rilevato durante la crisi petrolifera degli anni 70 e durante la Grande Depressione, quando le donne rinunciavano a fare i figli a causa dei licenziamenti. Veniamo all'Italia. Consumi elettrici in calo a luglio. Lo scorso mese, comunica Terna, la quantità di energia elettrica richiesta nel paese, pari a 30,4 miliardi di kilowattora, ha segnato un calo del 4,3% rispetto a luglio dell'anno scorso. Su questo dato, ottenuto a parità di giornate lavorative, ha influito una temperatura media mensile superiore di circa mezzo grado rispetto a luglio 2008. Senza questo effetto, a luglio il calo della domanda elettrica è stato del 4,9% su base annua, mentre rispetto a giugno la variazione è stata positiva del 3,4%. L'ultima volta che venne avvistato era il 31 gennaio 2009. Da allora il 6 ha fatto perdere le sue tracce fino a toccare il traguardo dei 123 milioni di euro dopo una cavalcata di oltre sei mesi. Ma fino ad oggi, quanto hanno speso gli italiani nella caccia alla sestina dei sogni del Super Enalotto? Dati alla mano, sono state convalidate 3,27 miliardi di combinazioni per una spesa totale di 1,63 miliardi di euro. A sorridere è sicuramente l'erario, che ha nel Super Enalotto il gioco con la più alta percentuale di ritorno e che da inizio febbraio a oggi ha incassato 820 milioni di euro. All'Italia funziona ed è in accordo con il budget. Questo è quanto ha detto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, sottolineando che la compagnia ha dovuto superare molte difficoltà, anche create ad arte da chi non vedeva di buon occhio l'operazione. Questo è quanto ha detto Berlusconi durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il premier è proprio tornato anche a puntare il dito contro i media che, a suo giudizio, pubblicano apposta interviste fatte per mettere in cattiva luce la compagnia. Sentiamolo. Abbiamo cominciato non con una cosa da poco, ma mantenendo l'Alitalia in mani italiane. Era una rinuncia folle quella che il precedente governo era disposto ad accettare, di passare all'Italia, la compagnia di bandiera di un paese che è ancora l'ottava potenza industriale del mondo e che ha nel turismo un punto di forza della sua economia, quello di che all'Italia passasse sotto Air France, che avrebbe portato tutti i turisti che via via diventano più numerosi in Cina, in Oriente, in India, nella Federazione Russa, a visitare i castelli della Loira piuttosto che le nostre città dell'arte. All'Italia ha ripreso, funziona, c'è stata recentemente un'assemblea, è in accordo con il budget, ha dovuto superare molte difficoltà iniziali. Io credo tuttavia che tutti gli italiani siano consapevoli del fatto che per l'Italia sia addirittura impossibile non poter disporre di una propria compagnia di bandiera. Tanti auguri ad Alitalia, al suo management e ai suoi coraggiosi soci. 349-238-6666 per tutti i vostri SMS. Adesso il nostro primo tema di approfondimento. Il PIL italiano, il PIL del nostro paese, sprofonda su base annua anche nel secondo trimestre di quest'anno. Questo è quanto ha comunicato l'Istat, spiegando che ad aprile, tra aprile e giugno, il PIL è diminuito del 6% rispetto allo stesso periodo del 2008, segnando la stessa flessione del primo trimestre di quest'anno, quando il PIL ha registrato il dato più negativo dal 1980, anno di inizio della serie storica. Rispetto ai primi tre mesi, quindi nel confronto tra trimestri, il PIL è calato dello 0,5%, un dato sicuramente migliore rispetto alla flessione del 2,7% registrata dal primo trimestre del 2009 rispetto al trimestre precedente. I dati diffusi oggi, lo ricordiamo, sono una stima preliminare, quelli definitivi saranno resi noti sempre dall'Istat il prossimo 10 settembre. Qualche dettaglio in più nella nostra scheda. Che la strada della ripresa fosse ancora lunga e irta di ostacoli, l'aveva in qualche modo preannunciato il calo della produzione industriale di giugno, risultato ieri superiore alle previsioni. Oggi arriva la conferma dal dato sul prodotto interno lordo del secondo trimestre, sceso del 6% rispetto all'anno prima, lo stesso risultato del primo trimestre, nonché il peggiore da almeno il 1980. È rallentata però la velocità di caduta, visto che tra aprile e giugno la nostra economia è arretrata dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti. Un dato di per sé negativo, ma consola il fatto che le previsioni fossero ancora peggiori, con gli addetti ai lavori che si attendevano una flessione dello 0,7%. Alla flessione del prodotto interno hanno contribuito tutti i settori, l'industria, i servizi e l'agricoltura. Anche se quest'ultima, come già nei mesi scorsi, sembra reggere meglio l'impatto della crisi. A questo punto il dato acquisito per l'intero 2009 è di una discesa del PIL del 5,1%. Questo infatti sarebbe il risultato se nella seconda metà dell'anno si registrasse una variazione nulla del PIL. Un calo che sarebbe lievemente migliore di quel meno 5,2% indicato nell'ultima stima del governo. Poche consolazioni, infine, dal confronto internazionale. Stando ai dati sinora disponibili, sia Stati Uniti che Inghilterra hanno infatti registrato flessioni su base annua più contenute della nostra. Quel Questo è il racconto di quanto è successo nel secondo trimestre del 2009 dal punto di vista del prodotto interno lordo, una notizia sicuramente, un dato sicuramente negativo, però dobbiamo registrare che oggi l'OCSE ha diffuso dei dati che per il nostro paese sono sicuramente una buona notizia. Per Italia e Francia i segni di una ripresa dell'economia ci sono già, è quanto emerge dai dati del superindice di giugno diffusi dall'OCSE. La crescita del superindice è più forte in Italia, dove l'indicatore è cresciuto di 4,8 punti su base annuale, arrivando a 103,3 punti. In Francia è salito leggermente di meno. Allora, che cosa dice l'OCSE? Che i segni di ripresa sono più forti in Italia e Francia, mentre Canada, Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Cina e India hanno chiaramente raggiunto un livello stabile. L'OCSE dice che l'Italia è la prima in Europa per segni di ripresa e questa è una buona notizia, lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa di cui vi abbiamo già raccontato nell'ambito dei nostri giornali radio, una conferenza stampa che ha chiuso i lavori prima della pausa estiva e ha voluto con questa conferenza stampa il Presidente del Consiglio fare un po' il punto sul lavoro svolto dal governo fino a questo momento. E appunto, sempre nell'ambito di questa conferenza stampa, Berlusconi ha anche commentato positivamente il dato dell'OCSE. Sentiamo. È maggiore in Italia il superindice, dove è salito di 4,8 punti su base annuale a 103,3 punti, rispetto anche alla Francia, la seconda in ripresa, dove è salito di 2,7 punti a 101,6 punti. Una buona notizia che va nella direzione della fiducia, che io insisto debba sempre esserci per uscire presto da questa crisi. A fronte della crisi finanziaria ed economica mondiale siamo riusciti a garantire subito la pace sociale con 34 milioni di euro stanziati per gli ammortizzatori sociali. Questo è quanto ha rivendicato il Premier. Sentiamo. Abbiamo poi, quando è arrivata la crisi, fatto molte cose, cercato di mantenere la fiducia, siamo intervenuti prima degli altri per le misure anticrisi a sostegno di una nostra grande azienda che è l'industria dell'auto, con grandi successi. Siamo riusciti a garantire subito la pace sociale, mettendo da parte 34 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali, ampliando le categorie a cui questi ammortizzatori sociali vengono garantiti, e oggi non c'è nessuno in Italia che perde il posto di lavoro e che non ha il sostegno dello Stato. Avevamo promesso ed abbiamo mantenuto che nessuno sarebbe stato lasciato indietro. Ho affermato in Europa e nei miei incontri internazionali che il primo dovere di uno Stato è quello di stare vicino ai propri cittadini, sino all'ultimo dei suoi cittadini, nei momenti difficili. Il Presidente del Consiglio ha poi anche accennato a quelli che sono i prossimi impegni al ritorno dalle vacanze. Sicuramente uno di questi è tutto ciò che riguarda il piano per il Sud. Qualcuno ha equivocato: il governo non pensa a una riedizione della Cassa del Mezzogiorno, ma a un istituto snello di cui faranno parte esperti in vari settori presi fuori dalla politica e che stendano un piano decennale proprio per il Mezzogiorno. Ma sentiamo quanto ha detto Berlusconi. Qualcuno ha equivocato che volessimo andare verso un istituto come la Cassa del Mezzogiorno. No, noi pensiamo invece a un istituto snello, fatto di esperti dei vari settori, anche al di fuori della politica, da prendere nel campo del lavoro e dell'economia, che possa stendere un piano decennale per arrivare ad indicare al governo quali sono le misure che si possono mettere in campo da subito per il Sud. Ci sarà naturalmente la decisione per quanto riguarda i piani, le dazioni, come abbiamo fatto per la Sicilia, per le altre regioni. Ci sono già fissati gli appuntamenti dei tecnici del Ministero dello Sviluppo con i tecnici delle singole regioni per la rimodulazione delle opere pubbliche, delle infrastrutture a cui devono essere destinati i fondi per le aree sottoutilizzate. Quindi siamo in campo su tutto, lavoriamo anche durante il mese di agosto e poi alla ripresa presenteremo questo piano, che sarà un piano che però sarà anche frutto di una collaborazione che chiediamo con tutte le parti sociali, col mondo del lavoro, col mondo delle imprese, con le varie amministrazioni, con le varie comunità locali. Il Sud è un problema nostro, la questione del Sud è una questione nazionale, Siamo convinti che l'Italia non possa progredire nel benessere se non attraverso lo sviluppo del Sud, ma anche il Sud deve aiutarsi. Teniamo presente che quando ci sono richieste verso il Nord, il Nord dà al Sud una parte di quelle risorse che è il Nord che produce, che versa lo Stato. Diversi commenti sul dato, sul prodotto interno lordo. L'Italia sta vivendo una grave crisi economica e l'amara realtà va affrontata con lucido realismo, entrando nel merito, evitando sia pessimismi paralizzanti, di cui non si sente il bisogno, sia ancor più ottimismi consolatori. Il Presidente Emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, invita la politica ad essere realista proprio riguardo alla crisi economica e in un intervento sul Messaggero chiede fatti concreti perché in ballo ci sono l'immagine e la sostanza del paese. Il calo congiunturale del PIL è dello 0,5% nel secondo trimestre, è un dato assolutamente migliore di quello che ci aspettavamo, al di là del dato negativo sulla produzione industriale di giugno. Ricordiamo, il dato sulla produzione industriale è di ieri. Noi infatti, e qui parliamo del centro studi della Confindustria, ci aspettavamo un calo del PIL nel secondo trimestre dello 0,7%, quindi sicuramente un risultato migliore rispetto alle stime fatte dal centro studi della Confindustria. Il governo deve mettere in campo maggiori risorse per combattere la crisi economica, serve uno sforzo straordinario, altrimenti la pace sociale potrebbe essere a rischio. Ad affermarlo è stato il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, proprio commentando il forte calo del PIL. E per una valutazione della situazione economica del nostro paese, alla luce del dato sul PIL, ma anche del dato sulla produzione industriale, siamo in collegamento con Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino ed editorialista della Stampa. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a lei. Allora, professore, questo dato sul PIL italiano, un dato deludente, possiamo dire, sprofonda a meno 6% su base anno anche nel secondo trimestre, meno 0,5% rispetto al trimestre precedente. Diciamo anche che dopo il dato sulla produzione industriale di ieri siamo piuttosto sconcertati, possiamo dirlo? Direi che è sconcertato chi falsamente si illudeva sul fatto che il peggio doveva assolutamente essere passato. Ci troviamo in una situazione in movimento ed è avventato fare previsioni ottimistiche di fronte a dei dati poco certi. I dati che abbiamo purtroppo confermano che forse nel peggio ci stiamo andando proprio adesso, ma non è certamente passato. Professore, però dobbiamo anche dire che personalità di un certo rilievo, lo stesso Obama qualche settimana fa si era spinto a dire il peggio è passato, da questo momento in poi possiamo solo che risalire. Tra l'altro il dato sulla disoccupazione americana invece conferma che questo momento di crisi è ancora totalmente in corso e non sappiamo dove andremo a finire. Esattamente così, cioè anche i politici di più alto livello qualche volta giocano l'arma così del indorare la pillola per la gente, e questo l'ha fatto anche il presidente Obama, che aveva un interesse specifico, cioè di convincere il Parlamento a votare la sua riforma sanitaria. In realtà quello che il massimo a cui gli americani puntano è che la caduta sia un po' meno rapida di prima. Ma questo non vuole ancora dire che la caduta sia finita. Sia finita. E non sappiamo se questi rallentamenti di caduta, che peraltro non abbiamo in Europa, dove continua ad andare giù seccamente, non sappiamo se questi rallentamenti di caduta siano temporanei oppure poi continuino. Quindi per il momento i segnali sono ancora tutti in rosso. Professore, possiamo però almeno sperare che il rallentamento della caduta dell'economia negli Stati Uniti possa avere qualche effetto anche in Europa, o in questo momento procediamo su due strade parallele? Io apprezzo il suo tentativo di trovare comunque degli elementi positivi. Non possiamo sempre. I dati sono quelli che sono. Cioè, se l'America continua a contrarre la propria economia, noi continuiamo ad avere degli effetti negativi, quindi comunque domani sarà peggio di oggi se la vediamo su queste basi, quindi dobbiamo ripensare anche al modo in cui stiamo affrontando questa crisi, perché non passa da sola. Certo. Senta, professore, tornando allora alla nostra realtà, che è comunque appunto una realtà dura, la caduta, l'abbiamo visto ieri, la produzione industriale, i beni di consumo hanno subito una flessione che è comunque minore rispetto a quella dei beni durevoli, dei beni strumentali, che sono calati del 26%. Sembra proprio che stia soffrendo di più tutta quella parte del settore produttivo imprenditoriale che ha cercato di andare per le vie della globalizzazione e che adesso si ritrova con la contrazione della domanda mondiale. Ma infatti la domanda mondiale, la domanda internazionale, cioè le esportazioni mondiali, stanno crollando a un tasso che è molto superiore a quello della domanda interna. Quindi è proprio il concetto stesso di globalizzazione che viene chiamato in causa da questa crisi. Io credo che quando saremo usciti da questa crisi avremo naturalmente ancora una qualche forma di globalizzazione, ma non sarà più la globalizzazione alla quale siamo stati abituati finora. Rispetto ai paesi europei, possiamo dire che da una parte sicuramente abbiamo retto meglio alla crisi del credito, quella bancaria, però rispetto all'economia reale ancora una volta ci siamo dimostrati più deboli degli altri, perché è vero che anche gli altri paesi europei registrano delle performance negative dal punto di vista del PIL, però diciamo i numeri non sono gli stessi. Direi che questo è corretto ed è spiegabile dal fatto che noi siamo più presenti di altri paesi europei in settori particolarmente toccati dalla crisi. Pensiamo, visto che siamo di stagione, al turismo, che è un settore che ha subito alcune tra le contrazioni maggiori. Pensiamo a tutto il Made in Italy di qualità alta o medio-alta, dove di nuovo abbiamo avuto delle fortissime cadute di spesa. Mentre invece paesi come la Germania sono magari più presenti nell'industria elettronica, dove la caduta è stata minore. Professore, l'ultima domanda, perché immagino che poi ci siano stati anche, ovviamente è vero che siamo più presenti in alcuni settori maggiormente toccati dalla crisi, ma ci saranno state anche forse delle valutazioni politiche sbagliate, mi riferisco agli anni pregressi, ovviamente non agli ultimi 2 o 3 anni, ma insomma scelte nel corso di questi ultimi, facciamo 10-15 anni. Per questo inverno a cui andiamo incontro e che da molti, non ultimi, sindacati viene definito come un autunno molto difficile, un inverno caldo, quali dovrebbero essere secondo lei le politiche più urgenti da mettere in campo per far sì che comunque la fine di questo anno venga superata in un modo o nell'altro senza eccessivi, tra virgolette, spargimenti di sangue? Noi partiamo da questa dipendenza dall'estero, per cui le politiche anche urgenti non possono cambiare la situazione, possono soltanto, diciamo così, addolcirla. Direi che non possiamo spendere molto di più dal punto di vista pubblico, perché siamo già sufficientemente indebitati, c'è il rischio che poi i mercati non apprezzino più i nostri bot, BTP e cose del genere. Quindi, non potendo fare questo, quello che possiamo fare è giocare sui nostri punti di forza, cioè il fatto che le famiglie dispongono di capitali accumulati molto superiori a quelli di altri paesi, e convincere in qualche modo con bonus fiscali, con detrazioni, con permessi, le famiglie a spendere un po' di più. Questo non ci manda fuori dalla crisi, ma ce la rende probabilmente molto più sopportabile. Oltre a questo, bisognerà anche fare una qualche redistribuzione verso i redditi bassi per sostenere i consumi di base, che altrimenti rischiano di essere troppo bassi e anche socialmente portarci in una situazione pericolosa. Oggi siamo andati a Prato, distretto del tessile, un distretto molto, molto importante che è in crisi non da oggi, e abbiamo raggiunto telefonicamente il signor Massimo Melani, che è titolare di 2 piccole società e appunto un imprenditore di Prato. Le sue società si occupano appunto di tessile. Sentiamo che cosa ci ha raccontato proprio della sua esperienza in questo anno, un anno molto difficile. Fino a un anno fa la storia, diciamo, dell'azienda Melani nel tessile è stata una storia positiva per quanto riguarda il cammino dell'economia tessile a livello di famiglia, diciamo, perché questa è partita un'azienda che è partita da un'impresa familiare, poi piano piano è cresciuta nel tempo. Ha visto tante crisi, passato tanti momenti brutti, diciamo, che in qualche modo siamo sempre riusciti a passare con disinvoltura, anche investendo, creando, facendo formazione, investendo in nuove tecnologie, investendo in risorse umane, ampliando le zone, diciamo, di commesse a livello nazionale da tutte le parti in Italia, e con aziende anche che lavoravano forte per il mercato mondiale. Poi niente, a giugno del 2008 è arrivato, io lo ritengo, un cataclisma economico, perché insomma ci siamo visti perdere le commesse nell'arco di un mese e due mesi, è sparito il 50% della produttività che eravamo abituati a avere, e qui è cominciato il dramma di un'azienda che in qualche modo può essere il dramma di tantissime aziende a livello nazionale, i pensieri per l'occupazione, per i dipendenti, i pensieri per il futuro incerto. Ecco, a questo proposito, quali sono, diciamo, le vostre prospettive al momento per i prossimi mesi? Ma di prospettive non ne ho davanti, si vive giorno giorno, abbiamo, diciamo, un ordinativo pari a zero, ecco, chiudiamo stasera alle 10 e rientriamo con 24 di agosto con qualche macchina che girano per finire le commesse. Mi auguro che settembre sia una partenza migliore, devo dire che bisogna sperare, perché dico sempre, il mondo non può finire, facciamo roba bella, di qualità, lavoriamo bene, abbiamo un'innovazione importante in azienda, ancora crediamo in quello che abbiamo sempre fatto, ci stiamo mettendo del nostro, stiamo rifinanziando l'azienda, però è logico, bisogna guardare in questi mesi come si evolve il mercato. Sarebbe importante vedere da parte di chi di dovere, vedere degli aiuti al tessile, cioè questo sarebbe importante. Senta, signor Melani, prima di parlare poi più concretamente di quanto è stato fatto anche a livello politico e istituzionale, lei quanti addetti ha? La mia è un'azienda, sono due aziende con 18 dipendenti. E di questi ha dovuto, per questi dipendenti ha dovuto ricorrere alla cassa integrazione? È da gennaio che a rotazione facciamo la cassa integrazione. Siamo partiti con 17 dipendenti a gennaio in cassa integrazione, si è ripreso il lavoro a marzo e a fine maggio, metà maggio abbiamo ricominciato con la cassa integrazione a girare, e tuttora ci sono 15 dipendenti in cassa integrazione. Le ferie, avevo già anticipato tutte le ferie, già a gennaio, dicembre dell'anno passato, novembre dell'anno passato del 2010, per non far pesare la cassa integrazione ai dipendenti, insomma si cerca di fare di tutto e di meglio perché la nostra squadra ne soffra il meno possibile, ma mi rendo conto che è sempre più difficile. Lei, possiamo dire, fino a qualche giorno fa è stato anche proprio esponente della categoria, perché faceva parte di Federmoda CNA, quindi può raccontarci anche un po' qual è la realtà che sta vivendo tutto il distretto di Prato? Ma certamente, noi come distretto di Prato, ma anche a livello regionale, e tutte le parti, diciamo, sociali insieme, abbiamo portato avanti delle politiche importanti nell'ultimo anno, anche la grande manifestazione che Prato non deve chiudere, insomma è andata in onda da tutte le parti, ha dato risonanza, abbiamo portato avanti insieme alle categorie i problemi del distretto tessile, abbiamo fatto incontro a livello nazionale con il governo attuale, però sinceramente noi abbiamo visto poco. Abbiamo visto poco e, insomma, nonostante i discorsi e gli aiuti alle piccole imprese, le banche, insomma, stanno facendo ancora poco, ecco, non ci siamo neanche mossi, senz'altro quando dopo partirà il tutto, insomma, tante aziende non esisteranno più, questo è il problema cruciale che in qualche modo ci affligge tutte le nostre aziende. Lei parla già di, diciamo, finite le vacanze, tante aziende forse sì, rischiano di non riaprire. Sì, finite le vacanze, insomma, tante aziende già hanno dato, diciamo, il là, insomma, non ce la fanno più a portare avanti i problemi di tutti i giorni, le onoranze di tutte le spese mensili, insomma. A questo proposito le volevo chiedere appunto un suo commento su questo ultimo accordo tra Confindustria e ABI, quindi l'Associazione delle Banche Italiane, per cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze delle piccole e medie imprese. Io ho un parere un po' tutto mio particolare, devo dire questo, perché insomma ho visto come già tante aziende che avevano già problemi iniziali prima della crisi, insomma questo aiuto alle aziende è un aiuto così, un aiuto dei discorsi, perché insomma qui si vuole dare, si vuole aiutare le aziende che non hanno bisogno, qui c'è bisogno di dare un aiuto a tutti per far ripartire l'economia tutti insieme, perché sappiamo benissimo che se in qualche modo riparte tutto prima della crisi del 2008, di giugno 2008, perché l'abbiamo sentita tutti in linea generale in quel periodo lì, si può dare speranza a un'economia che in qualche modo ripartirà presto, se no io la vedo veramente dura. Ci sono una percentuale minima di aziende che possono usufruire di quelle agevolazioni che stanno trattando ora e che hanno trattato, diciamo, c'è una parte minima d'azienda che legata anche ai rating che oggi insomma la banca deve fare della sua azienda, sono veramente poche le aziende che possono accedere a questi crediti. Senta, signor Melani, dal punto di vista invece della politica nazionale, che cosa vi è mancato, cosa vorreste chiedere adesso? La politica nazionale ha fatto poco per il sistema tessile, anzi devo dire veramente niente, perché noi abbiamo chiesto tanto la tracciabilità del prodotto, per esempio far sapere al consumatore il tipo di prodotto, come viene creato, da quale aziende viene prodotto, nelle normative che la Comunità Europea impone perché sia nelle regole, e che in qualche modo a tutt'oggi non ci viene riconosciuto. E io ancora di più chiamo in causa la Comunità Europea, perché non ha fatto assolutamente niente per difendere quelle aziende che in qualche modo in un primo tempo ha sostenuto, devo dire a questa maniera, perché i finanziamenti pubblici che sono arrivati alle aziende che in qualche modo dovevano essere in regola, le perle diciamo dell'economia nazionale, in qualche modo non vengono aiutate nel riconoscimento a quella che è l'etica di produrre in un certo sistema. Cioè qui abbiamo bisogno di regole che in qualche modo qualcuno le deve portare, diciamo, a compimento. Qui non si può più andare avanti in un sistema parallelo dove chi elude le regole va avanti e chi invece è in un sistema equo e compatibile, qui io non vedo un riconoscimento, un aiuto e un controllo da parte di questi membri che ci devono tutelare da quello che sta arrivando dai paesi che non rispettano questi parametri. Più direttamente proprio dal governo, per i prossimi mesi quali sarebbero le misure che in qualche modo potrebbero aiutare molte aziende ad andare avanti e quantomeno a cercare di superare questi ultimi mesi del 2009 che sembra saranno piuttosto duri? Ma io, come aiuti da parte del governo centrale nazionale, chiederei, e si chiede insomma, questa moratoria con le banche è importante, si faccia più ampia anche a quelle aziende che in qualche modo non possono avere un bilancio come lo prevede lo statuto attuale di quello che è uscito fuori, e in parte il governo nazionale deve fare di più per quanto riguarda stimolare i consumi del tessile, in questo caso stimolare il discorso fiscale, perché oggi abbiamo un sistema fiscale per chi consuma, io parlo dei dipendenti, cioè oggi il dipendente è la persona che ne sta toccando più di tutti, perché con 950 euro al mese non si può certo aprire le porte del paradiso, nel senso c'entra veramente poco una famiglia che anche lavorano in due e che in qualche modo entra in famiglia a 2000 euro, quando ha pagato l'affitto oppure la cambiale della rata, quando ha pagato le spese per vivere, insomma. Quello che chiedo dal governo è una defiscalizzazione soprattutto per il settore più basso, perché in qualche modo sulla busta paga arrivi a queste persone un gettito, diciamo, un potere d'acquisto maggiore, per far sì che, insomma, i consumi ripartano. Il contesto è questo, perché c'è bisogno di fare ripartire i consumi. Lo facciamo in compagnia della collega Leonora Micheli di Radio Cor. Benvenuta Leonora. Buonasera a tutti. Prima però d'obbligo un collegamento con gli Stati Uniti, con New York, dove c'è Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore, per parlare di questo dato sulla disoccupazione, che è stato poi il dato che ha mosso i mercati oggi. Buonasera anche a te, Marco, scusami. Sì, buonasera a voi. Allora, un dato sicuramente migliore delle attese. Sì, sicuramente così l'hanno preso i mercati. Wall Street infatti ha guadagnato sull'onda del dato oltre l'1% adesso, in questo momento quasi l'1,5%. Il dato ha rappresentato una schiarita per la prima volta da tempo sul mercato del lavoro. L'occupazione americana ha continuato a calare, però i posti persi sono stati 247.000 invece dei 275.000 attesi. È sceso anche il tasso di disoccupazione, sorpresa, al 9,4 dal 9,5%. In questo caso però è stato soprattutto il calo della partecipazione alla forza lavoro, quindi lo scoraggiamento tra gli americani, che ha generato che ha ridotto la forza lavoro e quindi generato il calo occupazionale. Il test per un recupero solido sul fronte occupazionale sarà sicuramente quello del economico, quello della salute dell'economia nei prossimi mesi, tenendo conto che anche solo per tenere il passo in generale con la crescita della forza lavoro americana, l'economia dovrebbe crescere a un ritmo attorno al 2,5%. Al momento però sicuramente questo è stato un dato incoraggiante, un dato che ha segnalato una schiarita sul fronte dell'agognata, della tanto attesa ripresa, quantomeno di un'economia e di mercati che cominciano a risanarsi, e dà ancora più forza al dato uscito in precedenza sul prodotto interno americano lordo, che era calato, che si era contratto soltanto dell'1% nel secondo trimestre. Grazie a Marco Valsania in collegamento con noi da New York. A lui buon lavoro e buona giornata, e noi torniamo qui a Milano con Eleonora Micheli. Allora Eleonora, come dicevamo, un'apertura questa mattina in calo, poi dopo il dato sulla disoccupazione negli Stati Uniti i mercati hanno invertito la rotta. Andiamo subito velocemente a Milano, dove ricordiamo la chiusura: il FTSE Italia All Share ha chiuso in progresso dell'1,13%, il FTSE MIB dell'1,29%. Sul listino principale ancora giù Telecom, i conti non hanno convinto. Guarda, in verità poi sul finale la Telecom si è ripresa, ha chiuso in rialzo dell'1,5%, durante della seduta invece effettivamente era debole nonostante il calo del 4% di ieri. I conti sono risultati tutto sommato in linea con le attese degli analisti, ma gli analisti si aspettavano una sorpresa in positivo sul fronte appunto dei conti, oppure anche sul fronte dei dossier relativi alle dismissioni. L'amministratore delegato Franco Bernabei ieri nel corso della conference call invece non è volato alto anche sul fronte appunto dei dossier caldi delle dismissioni, e conseguentemente appunto i titoli che erano saliti molto nelle ultime sedute hanno pagato, diciamo, la pressione dei realizzi. Sul finale però i titoli si sono ripresi più 1,5%. Gli analisti peraltro ci sono, diciamo, giudizi contrastanti. Bank of America Merrill Lynch ad esempio ha rivisto al ribasso la raccomandazione da buy, cioè da una raccomandazione di acquisto invece ha consigliato prudenza, mentre invece sono stati molto più ottimisti gli esperti di Deutsche Bank, che continuano appunto a raccomandare l'acquisto delle azioni. Eleonora, non è invece riuscita a risalire Fiat, che ha chiuso la seduta con un calo di poco meno di un punto percentuale? Sì, esatto, Fiat infatti appunto ha perso lo 0,96%, oggi erano un po' sotto i riflettori tutte le azioni del comparto auto, e questo per il fatto che gli analisti di Standard & Poor's, la società di rating, hanno rivisto al ribasso la raccomandazione su Peugeot. Peugeot infatti a Parigi ha perso oltre il 5% e ha pesato un po' su tutto il settore. Anche Fiat appunto ne ha pagato le conseguenze. Peraltro sempre Standard & Poor's proprio su Fiat ha confermato i giudizi, ma soprattutto ha confermato anche l'outlook negativo per la società. Enel ha chiuso la giornata, la seduta, con un progresso di 1,5%. Sì, grazie alla raccomandazione positiva di Goldman Sachs si sono riaccesi i riflettori sulla società, che così si è distinta appunto con questo progresso. Eleonora, pochi spunti, tutto sommato si va verso la settimana di Ferragosto, una settimana un po' in calo come di consueto. Sì, infatti ci sono molti movimenti tecnici e peraltro variazioni repentine anche dell'umore degli investitori, ovviamente esaltate anche dal fatto che il fatto che ci siano pochi scambi finisce appunto per far sì che i titoli cambino velocemente direzione. Certo. Anche le banche questa mattina ad esempio erano tutte in terreno negativo e trascinavano in basso il listino, complice il fatto che in Inghilterra il Royal Bank of Scotland ha pubblicato conti considerati deludenti con sì. una perdita semestrale di oltre 1 miliardo di euro, ovvero 1 miliardo di sterline. E invece poi alla fine della seduta i titoli bancari hanno ripreso quota, compresa Unicredit, di cui ci chiede un ascoltatore, che ha chiuso in progresso dell'1,72%. Io ringrazio Eleonora Michelia, le auguro buon lavoro, un buon weekend che auguriamo anche a tutti i nostri ascoltatori. Io ringrazio in redazione Mauro Del Corno, in regia Pietro Lacorte. Focus Economia torna lunedì alle 17:00.